oggi è a rischio chiusura perché siamo per l'ennesimo anno sotto la soglia minima prevista dalle normative nazionali, che sono quelle di almeno 500 parti ad anno per ogni struttura. Il problema è stato che questo limite presuppone la possibilità di avere delle deroghe, quindi se un anno non si, in qualche modo, non si riesce a superare questa soglia o arrivare a questa soglia, c'è la possibilità di avere delle deroghe. Il problema è che siamo già alla terza deroga, sarebbe la quarta, che non è più prevista e quindi diventa una possibilità concreta. Ora c'è stata naturalmente si è attivata tutta la politica del territorio, la regione toscana eccetera, però la situazione è in divenire. Quali sono i problemi che le donne si ritroverebbero ad affrontare con la chiusura del punto nascita? Allora, naturalmente la chiusura del punto nascita vuol dire anche chiusura della pediatria, vuol dire anche la chiusura del pronto soccorso pediatrico H24 e quindi anche dal punto di vista di tutto quello che è il prima e il dopo la nascita di un bambino verrebbe a mancare. Conti che nel Valdarno, il Valdarno conta circa 100.000 cittadini tra Valdarno Aretino e Valdarno Fiorentino, forse anche di più. Quindi siamo arrivati a questo punto anche perché negli anni passati si poteva forse fare qualcosa di meglio organizzativo. C'è stato un anno in cui è mancato il primario, ci sono stati anni in cui siamo rimasti sotto veramente di 3-4 parti rispetto al numero dei 500 e quindi in qualche modo si poteva fare meglio negli anni passati, ecco. Che cosa chiedete ora alle istituzioni? Quali sono i vostri obiettivi? Assolutamente non potremmo accettare una chiusura. Sappiamo che la Giunta regionale toscana si è attivata per chiedere al Ministero un'ulteriore deroga, perché in realtà i parametri che riguardano anche la lontananza, punto nascita, diciamo, della provincia più vicino, che sarebbe quello di Arezzo, che non dovrebbe distare più di 45 minuti di tratto, insomma, di collegamento, e poi la sicurezza, che comunque dovrebbe continuare a garantire questo punto nascita. Il peccato è che è un punto nascita che in realtà è un'eccellenza del territorio, perché ci sono i parti nella vasca, c'è un pronto mamma rispetto al latte materno, c'è tutta è considerato l'unico punto nascita che ha una certificazione dall'UNICEF. Siamo molto delusi perché in realtà questo parametro, che è vero che sta diventando un po' preoccupante perché il numero dei parti diminuisce un po' da tutte le parti, però in realtà questo è un ospedale grande, non è un piccolo ospedale, quindi siamo arrivati a questi punti perché negli anni passati sono stati fatti degli errori a parere nostro, ecco.